piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. All'altare della patria, per rendere omaggio al milite ignoto alla testa delle più alte cariche civili e militari del paese, tutte a rigorosa distanza le une dalle altre. Presidente, vengo da Catania, ho una foto. Ragazzi, i giornalisti stanno riprendendo da un'ora, potreste lasciare spazio alla gente? È stato un esempio di senso civico, di alto patrimonio morale, di alto valore. Cantate voi, fratelli d'Italia, È stato sicuramente un 2 giugno unico nella storia della Repubblica Italiana, quello che abbiamo osservato ieri. Non mi interessa in questo spazio dilungarmi in analisi di tipo politico, anche perché sono state fatte in questa radio da questa mattina, però è interessante che il 2 giugno ha rivelato, questo almeno è il mio punto di vista, un oggetto simbolico che rappresenta appunto il punto di divisione e di connotazione delle due diverse anime che sono state rappresentate comunque sia a Codogno, luogo simbolico dell'effetto nefasto del coronavirus, in cui era presente la figura più importante, apicale della nostra Repubblica, che è il presidente Mattarella, con una mascherina bianca addosso, circondato da governatore, sindaci, c'era anche un alto prelato, tutti rigorosamente con la mascherina bianca addosso. D'altra parte, un'altra Italia si è rappresentata in maniera, diciamo, più folcloristica, nell'area di Roma che va tra Piazza del Popolo e Largo dei Lombardi, saranno 200 metri via del Corso, che è una strada piena di ginserie, dove i romani fanno vasche e vanno ad acquistare cose, almeno prima del coronavirus, in cui si è rappresentato il dissenso a quel tipo d'Italia, indubbiamente, che se ne dica, che veniva appunto rappresentata simbolicamente dal Presidente della Repubblica, con una sorta di rituale smascheramento, in due fasi, secondo me, ben distinte, perché non vogliamo fare un urban fascio. Lo smascheramento parziale, Salvini, Meloni, che hanno usato la mascherina come uno spazio personale di affissione in cui era possibile mettere una bandiera tricolore per dimostrare che loro erano gli italiani più italiani degli altri, ma pur tuttavia di fatto rappresentando la grande messa in scena dello smascheramento, tutti accatastati, le mascherine venivano abbassate, i selfie, il passaggio del telefono di mano in mano, che contro ogni regola che ci hanno insegnato e ripetuto più volte di sicurezza per la salute generale, in un momento in cui la pandemia, anche se dà segnali di attenuazione, comunque nessuno ci ha detto che è finita. Il punto di divisione era proprio la maschera. Mascherati da una parte e smascherati dall'altra, ma con un paradosso che mi piace questa mattina sottolineare. Ne ho scritto oggi sul mio quotidiano, che è La Stampa, e qui vorrei trovare una verifica di quello che era il mio pensiero. Con il pubblico può chiamarci all'800240024 e comunicarci da che parte è, perché questa mattina, indubbiamente, il giorno in cui si riaprono le porte, in cui tutto sembra tornare come prima dal punto di vista della nostra possibilità di muoverci, in realtà ancora gli italiani sono profondamente divisi da un oggetto, che è la maschera. I mascherati, per paradosso, sono quelli che stanno dalla parte dell'assennatezza, della fiducia nelle istituzioni, nella fiducia nella scienza, nella prudenza, nel rispetto degli altri, perché chi si mette la maschera ancora oggi nei luoghi chiusi, ma anche lo si vede per strada mascherato, anche se non è strettamente obbligatorio, è una persona che comunque ci tiene alla sua salute in maniera particolare e non è certo considerabile ipocondriaco tout court, ma soprattutto dà un segno di rispetto agli altri. Non ti sputazzo addosso, non ti alito addosso, perché ancora potrei essere nocivo a te, ai tuoi familiari, alle persone che frequenti. D'altra parte, invece, c'è una sorta di paese che, affondando in quello che è l'indubbio disagio, l'indubbio totale, malessere, le difficoltà economiche, il conflitto sociale che sta emergendo, porta come vessillo di questa istanza il fatto che si vada smascherati. La parte più estrema dello smascheramento, quelli che proprio la maschera l'hanno bruciata in piazza, la considerano un simbolo di oppressione, che sono, diciamo, il popolo arancione, chiamiamolo così, ieri si sono ritualmente abbracciati a Piazza del Popolo, baciandosi, dimostrando che in realtà era tutta un'infame costruzione, la necessità di mascherarsi, la necessità di stare distanziati, ma lo stesso coronavirus è tutta una grande costruzione vessatoria, in cui dietro c'è Bill Gates, c'è il 5G, ci sono i potentati, ci sono tutto un insieme di personaggi che hanno sempre animato il pantheon di ogni pensiero complottista. Ora, non mi interessa come voi la pensiate da un punto di vista politico-ideologico, mi interessa molto che voi mi diciate questa mattina se vi sentite mascherati o smascherati. E per paradosso, il corteo degli smascherati, esattamente, che rappresentano l'antagonismo, rappresentano un punto di vista, diciamo, sovvertitore rispetto a quello che è l'ordine tradizionale dello Stato, anche se chiedono elezioni, elezioni, elezioni, in realtà vorrebbero sostituirsi loro, sostituire il loro punto di vista, quello che è l'istituzione, vanno smascherati. Quando nella chiara lettura di ogni antagonismo di piazza, di solito l'antagonista, il dissidente, colui che è contrario alle istituzioni o si contrappone alle istituzioni, va mascherato. I regolamenti di pubblica sicurezza che danno regole per le manifestazioni dicono che non si può mascherare il volto, bisogna essere riconoscibili. In realtà la riconoscibilità a questo punto è il segno di stare dall'altra parte, dalla parte di quelli che in realtà vorrebbero un mondo diverso, che mettono in dubbio tutto quello che noi consideriamo perlomeno qualcosa che si avvicini a una prudente certezza che ci sia stato un virus che ci ha creato molti morti, che ci ha creato molti problemi, che è stato arginato con una sorta di inconsapevolezza iniziale, oggi con strumenti più efficaci, che comunque lì, che vigila e che ancora non sappiamo bene come, dove, in che maniera potrebbe ripresentarsi. Ecco, e da quale Italia voi vi sentite più rappresentati? I mascherati o gli smascherati? 800240024, oggi il sondaggio è manicheo, o da una parte o dall'altra, tertium non datur. Oggi, nel giorno della grande riapertura e la libertà di spostamento, vogliamo sapere come vi comporterete e in quale di questi due blocchi vi collocate. Chiamate ora all'800240024 e diteci se vi collocate tra 1. I mascherati. Porterò la maschera, la indosserò nei luoghi chiusi e manterrò tutte le norme igieniche che mi danno il maggior livello di sicurezza per la mia salute e quella degli altri, perché questo è quello che deve fare un cittadino responsabile. 2. Gli smascherati. Per me Carnevale è finito e la vita ricomincia esattamente come prima. Non percepisco più il coronavirus come un pericolo reale. Comincio a pensare che con tutte queste maniere di isolarci e controllarci, alla fine si sia evitato un confronto reale con i problemi del paese. Mentre aspetto quelle che sono le vostre reazioni, voglio fare alcune riflessioni con voi ad alta voce. La maschera, nella sua riconoscibile funzione tradizionale, serve a nascondere una nostra identità, a creare un filtro che rappresenti qualcos'altro rispetto a quello che noi siamo, per dare modo, adito, possibilità di espressione, la nostra capacità di simulare qualcosa che noi non siamo. Quindi la maschera è l'assunzione di un'identità che non ci appartiene, che non è la nostra. Ma mai come in questo periodo, in realtà la maschera assume un valore identitario. Io mi identifico proprio perché porto la maschera. Porto la maschera e quindi do un segnale molto chiaro. Il mio essere mascherato significa il mio voler rispettare comunque delle regole che ancora, fino a prova contraria, salvaguardano la salute mia e degli altri. 800240024, Aldo da Roma, buongiorno. Salve Gianluca, buongiorno. Io assolutamente sto nella seconda categoria. Smascherato. No, senza maschera. Smascherato. Senza maschera, sì, smascherato. Allora, avevo capito bene. Diamo un senso. Sei d'accordo che oggi, se tu incontri per strada, essendo tu, diciamo, della categoria degli smascherati, una persona con la maschera, lo consideri un pauroso, un servo? Assolutamente sì. Perché dall'inizio ho percepito, diciamo, una sorta di eccessivo dare dietro allo stomaco del paese da parte della politica, non prendendosi le giuste responsabilità. E quindi secondo te la maschera è stato un sistema per, è come mettere il parocchio al popolo, mettiamo la maschera, sì, al popolo, così il popolo non vede, non protesta, sta zitto. Assolutamente sì, è un po' come, quindi, un tappo alla sulle... bocca. Chi metteva la maschera ha voluto tappare la bocca al popolo. Assolutamente sì. Ma il fatto che siano morte delle persone, che ci sia stato un coronavirus, che comunque la maschera, con tutti i limiti che può avere in qualche maniera, ci salvaguarda da un'infezione e ha permesso, diciamo, il distanziamento fisico, le mascherine, le forme di profilassi che sono state sperimentate hanno permesso che comunque il virus sia regredito nel suo potere letale, quindi non ha avuto senso allora? No, io sono assolutamente anche d'accordo, però c'è anche un giusto mezzo che un po' identifica anche la cultura e la civiltà di un popolo. Io pensavo di appartenere a un popolo che avesse già introiettato un po' quei valori di libertà civili, no, individuali, che consentivano la responsabilizzazione del singolo senza diciamo mettere in atto quelle misure che io ritengo assolutamente oppressive. Questo è il punto di vista tuo, non lo contesto, volevo solo capirlo bene perché vorrei essere convinto da te. E i 33.000 che sono morti, secondo te, non hanno senso? Ci facciamo una croce sopra e diciamo... No, assolutamente, però è un po' come dire che tutti gli altri che sono morti di influenza nelle altre stagioni non hanno alcun senso. Secondo me hanno tutti lo stesso valore. Il morto è un morto e va rispettato. Però quindi non c'è stato nulla di diverso rispetto alla prassi dell'influenza annuale quest'anno. È stata un'influenza che ha fatto qualche morto in più, che non meritava, diciamo, il lockdown, l'arresto dell'economia del paese, la chiusura in casa. Questo è il punto di vista di uno smascherato, ecco. Sì, no, non credo sia il punto di vista dei gilet arancioni, nel quale io assolutamente non mi... No, smascherati, io non ho voluto, però... ho descritto il quadro, ma non voglio entrare nello specifico. Mi ha aiutato a capirlo. Obiettivamente, questo conferma però quello che dicevo. Tu vedi nella maschera qualcosa che è il simbolo di oppressione. Come una volta uno faceva vedere le catene spezzate, la falce e il martello che rompono le catene, non lo so, la spada del legionario che spezza le reni al nemico cattivo che ci vuole affamare. Oggi nella mascherina vedete questo segno, mi sembra chiaro. Margherita da Milano, velocemente. Buongiorno, io faccio parte dei mascherati e devo dire che ieri mi sono sentita anche profondamente offesa dalle manifestazioni che ci sono state, come chiamando da Milano, chiamando dal nord Italia, ognuno ha diritto di esprimersi, secondo me c'è libertà di espressione. Sono state fatte anche davanti al Duomo di Milano sotto la Madunina le stesse manifestazioni. Sì, però secondo me nel giorno in cui prima di tutto era la festa della Repubblica e poi il Presidente andava a rendere omaggio anche comunque alle vittime di Codogno e non solo, magari. Ma è stato fatto apposta, è un gesto, adesso l'ho detto, non entro, è un gesto politico forte. Sì, infatti. Cioè, il 2 giugno siamo noi, la Repubblica siamo noi, la bandiera siamo noi, un bandierone di 300 metri snocciolato lungo la strada dei blue jeans e delle borsette in plastica ha dimostrato che in realtà quella era la strada verso il arrogarsi il diritto di essere loro i veri italiani, gli arci italiani, quelli che hanno diritto di mettersi la mascherina, sì, ma tricolore, che diventa una bandiera, è come uno spazio di affissione individuale. Ci fermiamo ancora un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Melog. La maschera che divide l'Italia. La giornata del 2 giugno 2020 ha trasformato la maschera in un oggetto simbolico e di radicale divisione ideologica e di comportamento degli italiani. Abbiamo visto infatti, da una parte, la celebrazione ufficiale del Presidente della Repubblica mascherato, dall'altra parte coloro che manifestavano il dissenso in piazza, accomunati dall'essere smascherati. Nulla rivela oggi meglio quello che siamo dell'uso che facciamo di una maschera. Non c'è via di mezzo, o si sta da una parte o dall'altra. Oggi, nel giorno della grande riapertura e la libertà di spostamento, vogliamo sapere come vi comporterete e in quale di questi due blocchi vi collocate. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se vi collocate tra 1. I mascherati. Porterò la maschera, la indosserò nei luoghi chiusi e manterrò tutte le norme igieniche che mi danno il maggior livello di sicurezza per la mia salute e quella degli altri. Perché questo è quello che deve fare un cittadino responsabile. 2. Gli smascherati. Per me Carnevale è finito e la vita ricomincia esattamente come prima. Non percepisco più il coronavirus come un pericolo reale. Comincio a pensare che con tutte queste maniere di isolarci e controllarci, alla fine si sia evitato un confronto reale con i problemi del paese. 800240024, ringrazio da Milano Peter Bescapè in regia e in assistenza Lorenzo Nespoli, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, che mi stanno aiutando a risolvere questa difficile equazione: se gli italiani sono questa mattina, il giorno della grande riapertura, maggiormente dalla parte dei mascherati o degli smascherati. Sì, perché abbiamo collocato e individuato la maschera come discrimine simbolico tra due atteggiamenti generali. Uno di massima sfiducia, ci hanno preso in giro, ci hanno ingannato, non era vero niente, è stato radicalizzato, esagerato, una maniera per mettere un bavaglio al popolo e quindi siamo smascherati da oggi. D'altra parte, invece, chi è più prudentemente fiducioso delle istituzioni si dice: io continuo a mettere la maschera anche perché la mia identità la rivelo mascherandomi dimostro la mia attenzione al bene pubblico. Questo almeno è il mio punto di vista, lo confronto questa mattina con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Mascherati o smascherati? Emma da Roma, buongiorno. Buongiorno, io sono smascherata, convintamente smascherata. Come ho detto prima, sono anche un medico, non sono una persona totalmente, come dire, ideologizzata. Perché secondo me, sulla mia esperienza, chiaramente Roma, il Sud e quello che è successo in Italia l'abbiamo visto tutti, non c'è stata la stessa problematica che c'è stata nelle regioni del Nord. E secondo me si è esagerato, ne hanno fatto degli errori grossolani. Non è politica assolutamente. Ma secondo lei, dottore, è meglio esagerare in eccesso, cioè con cautele anche eccessive, o in difetto? Diciamo, tanto. Mettiamoci nella media, nella normalità, nel senso che laddove ci sono posti molto chiusi, dove c'è un rischio con persone anziane, con persone malate, negli ospedali, laddove io lavoro e c'è tanta gente fragile, lì è giusta una preservazione di quelle che sono la salute individuale e degli altri. In un ambito all'aperto, in realtà più tranquille, dove ci sono persone giovani, secondo me occorre ritornare alla normalità, perché poi alla fine diventa un dramma sociale, che anche quello è un dramma enorme per quanto riguarda. Vabbè, il suo punto di vista, diciamo che più o meno oggi nessuno obbliga di tenere la mascherina all'aperto, purché si stia distanti. Non si dovrebbe stare appiccicati uno all'altro, respirarsi addosso, perché c'è il rischio che se nell'assembramento c'è uno che comunque in qualche maniera ha addosso il virus, lo trasmette velocemente agli altri. Antonello da Livorno, buongiorno. Salve, buongiorno. Suo punto di vista. Sono un mascherato, a contro di quello che dice la dottoressa, io sono un infermiere e ho prestato la mia opera in questa emergenza presso il pronto soccorso di Livorno. Ho visto le persone veramente soffrire, veramente morire sole e affogate nelle difficoltà respiratorie. Quindi alla luce di tutto questo penso che bisogna credere nelle istituzioni, bisogna credere nella scienza e bisogna credere nell'operosità della nostra professione e di tutti quanti i sanitari in generale, perché non mi voglio ritrovare in questa situazione, lontano dalla famiglia, lontano dagli affetti e soprattutto veramente vedere persone che soffrono e muoiono in questo modo, insomma. E non è tanto è chiara la sua esperienza, lei ha vissuto un'esperienza più focalizzata sull'emergenza. La dottoressa realmente era in una regione in cui non è stato lambita dal coronavirus, quindi dice: ma perché mettersi la maschera? Non ci sta o Covid, come diceva la signora identificata dalla D'Urso, che poi ha dovuto anche chiedere scusa, che stava a Mondello, ha detto: o Covid non ci sta, e quindi da allora è diventato un meme e la stanno tartassando, che non è nemmeno giusto. Pino da Torino. Faccio solo una piccola premessa, io allora senza maschera assolutamente, anche se non simpatizzo con le piazze di ieri, ma senza maschera, perché ho notato che voi giornalisti, la maggior parte... Mi faccio un attimo finire, ho notato che siete per il 90% per i vaccini e per queste benedette maschere. Allora questo qui però per i vaccini siamo dalla parte dell'evidenza scientifica, facciamo bene il nostro mestiere. Sì, ma non mettete mai un contraddittorio. Ma contraddittorio con chi? Scusi, ma non esiste il contraddittorio. Ci sono un sacco di medici che sono contro i vaccini, non è sì, la maggior parte l'hanno radiati dall'ordine dei medici. Non fate parlare uno e quindi parlano quanto vogliono. A dimostrazione che poi gli italiani, la gente si informa. Ho capito, ma perché lei adesso deve fare il comizio Novax? Sì. Ho capito, è un punto di vista sconfessato alla comunità. Se lei non crede nel metodo scientifico, ha perfettamente ragione. Se lei crede nel metodo scientifico, cioè c'è una comunità che si confronta con gli strumenti del sapere necessari per avere un confronto, chiaramente non direbbe quello che dice. Quindi lei ha un suo punto di vista che io ritengo personalmente opinabile, però lo esprima. Non è che non facciamo parlare, tutti parlano e tutti hanno spazio. È inutile fare il confronto fra uno scienziato e un Novax che non sta dalla parte della scienza. Se uno pensa che tutto quello che dall'illuminismo oggi ha portato fuori l'umanità da un pensiero oscurantista, dogmatico, superstizioso, si chiama scienza. Se poi la scienza è perfettibile e è un metodo che può continuamente rimettersi in discussione, però io sono convinto che le cose stanno così, ma non l'ha parlato, ha detto quello che voleva, non ha espresso chiaramente il suo giudizio sul soldaggio, ma semplicemente fatto un proclama Novax. Danilo da Fermo, ha parlato? No. Ciao, no, eccomi. Sono? Allora, io sono uno smascherato, cioè non è che sono scettico, capito? Qua, a casa mia moglie sempre lavati le mani, cioè è una cosa pazzesca, capito? Vedo quelli in macchina tutti mascherati, che a me mi sembra come esempio, no? Uno che sua moglie a casa cosa fa? Sua moglie si maschera? Mia moglie è impaurita, sente sempre la capua è la capua quelli martedì sera lì sul Floris. È un'illustre scienziata, vabbè. Sì, ma è bravissima, che dico che non, però capito. E il suo invece il punto di riferimento in antitesi alla capua chi è? No, Sgarbi, però Sgarbi mica è un medico, uno scienziato, un virologo. No, è un critico d'arte. Sì, lo so. No, io dico però che cioè in campo di virologia il parere di Sgarbi equivale a quello di che ne so, anche di un bambino. Quello di Zangrillo, per esempio, no? Che ha detto che ormai siamo un po' Ma lì c'è un dibattito, sì, su quello. Comunque, sì, però io quando vedo quelli in macchina, bias, ognuno crede quello in cui vuol credere. Lei è convinto che questa sia la verità, quindi giustamente crede in questo. Lei pensa sua moglie è esagerata, quindi ma come vi dividete quando uscite? Sua moglie è mascherata e lei è smascherato? Sì. Ieri al mare, per esempio, no? Al mare, in passeggiata al mare, lei è mascherata, cioè e io no. E io stavo, cioè, capito, ma cioè, non posso andare in giro tutta l'aria aperta a maschera. Cioè, mi sembra, anche in macchina per esempio, no? Quelli che vanno in macchina con la maschera dentro e vanno da soli, è come mettere un profilattico e vai a dormire solo a letto, capito? È uguale, la stessa cosa. Magari uno pensa di aver freddo al pisello, se lo mette per scaldarsi, che ne so, una forma di igiene, non lo so, sto scherzando. Io ho detto questa cosa un giorno, vado anche da solo mascherato, sono stato questo attaccato, mandato del coglione. È successo una volta, facendo un tragitto breve di macchina, essendo il periodo in cui si andava mascherati, non mi sono ricordato di togliere la mascherina, sono talmente abituato, non mi dà nemmeno più fastidio, ormai ci sono abituato. Ecco, tutto qua. Poi ognuno, se vuole le sue tranquillità, ci sono anche quelli che vanno in giro con la cintura e le bretelle assieme, è una forma di sicurezza. Ettore da Padova. Buongiorno, io sono tra i mascherati. Perché ecco, credo definisco un po' meglio questa posizione, perché gli smascherati hanno dato, diciamo, costrutto ideologico e struttura al loro pensiero, i mascherati sì, un po' meno, ecco. Ora glielo dico del perché mi sento mascherato. Vede, io vengo da Padova, è una regione che la mia è stata colpita tantissimo dal Covid, sicuramente meno. Ma anche della Torino, signore di Torino, anche Torino è stata colpita, però, vede, eppure lui è uno smascherato. Certo, però vedi, oggi per la prima volta sto viaggiando tra regioni dopo 100 giorni che non metto piede fuori dalla mia regione. Allora io dico, non sono bastati 33.000 morti per farsi capire che forse dovremmo utilizzare un po' più di precauzione nei confronti di questo virus? Non sono bastate vedere le sofferenze in tutto il mondo? No, noi dobbiamo sempre distinguerci e appena ci danno un dito dobbiamo prenderci il braccio. Però guardi, di fronte ad ogni tragedia che attraversa la storia, e non voglio far paragoni di entità e di gravità tra le tragedie, cresce subito, immediatamente, quando passa il momento cruciale e l'avvenimento sembra che di esserselo lasciato alle spalle, il pensiero negazionista, che nega quello che è accaduto. È una sorta di esorcismo per evitare che ciò rappresenti un problema, un modo di riflessione, un terreno in cui bisogna comunque confrontarsi, si nega. Lo smascherato nega quello che è accaduto, pensa nella forma più estrema che sia stata una grande mistificazione strumentale, nella forma meno estrema che c'è stata un'esagerazione, come la dottoressa, cioè hanno esagerato, in fondo da noi non è morto nessuno. Certo, nei posti in cui si vedevano uscire le bare in fila e non c'era nemmeno il posto per poterle portare al Camposanto, devo dire la pensano diversamente. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, continuiamo il confronto. Devo dire che si può anche parlare in maniera pacata di quelli che sono i temi che sembrano dividere in maniera sanguinosa l'Italia. Oggi si stanno confrontando nel campione medio dell'italiano, che è il nostro pubblico in questa fascia oraria in diretta, gli italiani mascherati e smascherati, dando alla maschera la dignità di oggetto divisivo, di strumento identitario, piuttosto che mascheratore di identità, di elemento di simulazione, di artificio. No, la maschera diventa il rivelatore. Attraverso la maschera si rivela la propria identità, nel metterla o non nel metterla, o non metterla. Umberto da Treviso. Eccomi qui. Buongiorno Nicoletti, ascolto sempre con molto piacere. Io mi sono appunto finito nella presentazione razionalmente e cautamente mascherato, nel senso che ritengo che dall'analisi di quello che abbiamo fatto, che abbiamo visto in questi giorni, in questi mesi ormai, sia razionalmente importante capire che abbiamo degli obblighi nei confronti di tutti. Però sì, le faccio una domanda che è interessante, mi interessa questo. Scusi, la uso come... Quando lei va per strada mascherato e vede altre persone mascherate, sente un senso di identità con queste persone? Cioè, questi sono dei nostri, sono quelli che stanno dalla mia parte, siamo i mascherati. Trova un senso di identità e quando la guardano con un sorriso, come per dire, come sbattendole in faccia il loro smascheramento, quelli che vanno in giro abbracciati, assembrati, come fosse tutto, diciamo, passato, non esiste più. Ecco, sente la differenza? Ma allora, devo essere sincero che ho avuto la fortuna che a Treviso sono stati molto ordinati e quindi non ho mai avuto la sensazione di trovarmi in una situazione di contrapposizione, ovvero andavamo quasi tutti in giro, diciamo il 99%, quelle poche volte che poi ci si ritrovava a camminare in luoghi con un minimo di frequentazione, in quanto c'è stato veramente un periodo in cui Treviso era totalmente deserta. Ho fatto un piccolo filmato delle anatre del Sile che attraversavano un incrocio che normalmente è frequentatissimo, ecco, tanto per dare l'idea di come ci si è comportati. No, diciamo che in questo momento io noto una contrapposizione laddove la mascherina la ritengo necessaria, ovvero agli interni, dove qualcuno comincia a non metterla, però di contraltare trovo anche eccessivo, come ieri ero in passeggiata in una camminata su verso Cortina, dove in montagna, dove non ci si ritrovava assolutamente vicini e con le regole dello Zaia che ha tolto la mascherina, perché voi sapete che noi abbiamo dovuto portare la mascherina anche all'esterno, anche camminando, fino all'altro ieri. Da ieri era scomparsa ancora con le mascherine. Ecco, sono gli eccessi che mi danno fastidio. Si cammina diciamo in fila indiana, anche se distanziati, è maggiore la quantità di sputazzo che uno manda a quelli che stanno dietro, e quindi probabilmente qualcuno avrà pensato a questo. Però diciamo, per questo uno rimane legato anche a una propria rappresentazione di identità, anche quando non è più necessario esibirla. Nemmeno era necessario mettersi le mascherine tricolori ieri per dire noi siamo italiani. Rispetto agli altri, chi non la mette è meno italiano, ha meno diritto di festeggiare il 2 giugno. Sono tante domande che non lasciano poi risposta. Lino da Siracusa. Buongiorno dottor Nicoletti. Io non la vedrei dal punto di vista strettamente manicheo, come diceva lei, metterla o non metterla, perché la questione è un pochino più complessa. Propone una corrente in questi due filoni. Lei quale corrente appartiene allora? Ad una corrente che non prevede una differenziazione netta, ma più che altro oculatamente parlerei di questioni psicologiche. Il popolo italiano che è stato ristretto in questa situazione veramente grave, drammatica, e che ha dovuto subire delle restrizioni a quelle che sono le libertà personali in maniera... Ma non è solo il popolo italiano, è una situazione mondiale, cioè tutto il mondo è passato per questo, più o meno. Quindi non è che sia stati noi italiani perché qualcuno ci voleva male. Diciamo, un po' tutti sono passati, anche se in forme diverse, anche se non sempre con il rigore che noi abbiamo conosciuto, attraverso questa situazione. Quindi non è che ci dobbiamo sentire noi italiani come frutto di un tartassamento istituzionale specifico. C'è stato anche per i francesi, per i tedeschi, per i belgi, per i lussemburghesi, per gli spagnoli, certo, per altri un po' meno, però c'è stato un po' per tutti. Allora, Gian Piero, da Milano. Sì, buongiorno, un piacere parlare con lei. Allora, io devo fare una velocissima premessa. Fino a ieri, ero uno di quelli che indossava la mascherina anche in macchina da solo. Io sono un medico, per un motivo molto semplice, perché comunque, anche parlando a viva voce in macchina, i miei droplet si depositano in macchina e la mia macchina, che viene frequentata anche da mia moglie, dai miei figli e da altre persone, poteva diventare un mezzo di contagio. Forse io sono un pochettino viziato dal fatto che so lavorare in campo sterile, so che cosa vuol dire contaminare le superfici, eccetera, però volevo spezzare una lancia nei confronti delle persone che mettevano le mascherine. Io penso che sia meglio sembrare eccessivamente scrupolosi piuttosto che tralasciare delle piccole attenzioni, alla fine non è che costino poi tanto. Lei giustamente dice, poi mia moglie prende la macchina, io posso, non voglio lasciarci qualcosa a mia moglie, le sue amiche, i compagni di classe dei miei figli, non voglio avere nemmeno il rischio remoto, visto che sappiamo poco di questo virus, di lasciare qualcosa di persistente. Quindi, però cosa ha cambiato? Come mai ha fatto questo cambio ideologico da oggi? Io oggi sono spaventosamente smascherato, nel senso che ho paura di smascherarmi, ma capisco che forse comincia a essere... capisco anche che non è bellissimo dirlo per radio, però potrebbe essere giustificato smascherarsi, perché ho approfondito un pochettino le ricerche del collega Zangrillo e con telefonate a colleghi che lavorano nelle varie terapie intensive, ed effettivamente, pur essendoci ancora il virus, pur essendoci ancora il rischio di contagio, la malattia che deriva dal virus, quindi il Covid-19, se sembra essere assolutamente meno... Dove, dottore, lei mi conferma qualcosa che trovo molto interessante nella mia curiosità generale. Anche nelle diverse maniere di porsi, mascherati e smascherati, crescono le correnti. Allora, lei cita Zangrillo come altri, come avesse creato quasi una corrente di pensiero, un partito nella comunità scientifica. Ma la scienza è evoluzione, la scienza sì, cambia beh, tutti però, i giorni. Sì, ma giustamente io lascio a voi la discussione, il dibattito, a voi che vi occupate di scienza. Io osservo soltanto. Poi capisco in questo momento il dibattito che verte sempre sulla... esteriore maniera di manifestarsi, mascherati o smascherati, fa sì che lei, che in questo momento ha aperto un suo file sullo Zangrillo pensiero e su quello vuole approfondire con i suoi strumenti di medico, di scienziato, quindi non voglio discutere, però attua un cambio radicale, è come se si fosse messo il distintivo di un altro partito improvvisamente, come se tolto la camicia di un colore e messo quella di un altro. Lo dico come elemento, diciamo, di lettura sociale, non entro poi in merito, non ho strumenti per dirlo. Però quest'ultima telefonata mi ha confermato che in realtà ci hanno visto giusto la nostra intuizione. Presto gli italiani si chiuderanno in due bandiere diverse, l'una avrà una maschera e l'altra una persona.